Sì, no, massimo risultato quantitativo col minimo sforzo. Ecco, no, ne sa qualcosa sicuramente Alessio Alberici, che produce un vino che credo sia uno dei vini più sputtanati in assoluto, non il suo, ma il Lambrusco. È proprio una cosa che uno lo sente dire e rimane terrorizzato e paralizzato. Io devo dire che quando noi siamo arrivati a questa trattoria di Doenza, che è una trattoria che onestamente frigge i pescigatto del lago Trasimeno, cioè nel senso che ti dice: questi pescigatto non li friggiamo perché sennò, però vengono dal lago Trasimeno e le rane dalla Turchia, te lo dice con grande, grande franchezza, che secondo me è il modo migliore poi di raccontare le cose. Fino a 10 anni fa però i pescigatti c'erano. Sì, è chiaro. Adesso purtroppo sono del lago Trasimeno, in effetti. Però in ogni caso io credo che tu non vinifichi né del Lambrusco né dell'uva Fogarina che viene dai Colli Martani, ma viene invece da quell'area. E Esattamente. noi nell'incontrare questo vino abbiamo detto: cavolo, ma cioè, ci sono, ecco, in tutto questo casino ci sono delle cose che sono vere. Perché sono vere? Perché c'è della gente che le vuole fare in un certo modo. Ci vuoi raccontare il tuo vino, Alessio?